Ora attenzione canale 10, c'è qualcuno, cambi. CQC 5-10, 5-10, 5-10. E qua chi c'è o chi non c'è? Chi ci puoi metti? Chi c'è? Avete parlato in tre. Un attimino, prima mi è sembrato Gianfranco, l'altro Gianni, vai Gianfranco. Sì, ho detto chi ci puoi che ci sia qua. No, siccome ero su, ero in PMR, no? Chi era l'ascolto, non so se mi sentiva, eccetera. Mi era sembrato di vedere un segnale, perché era vuoto il canale. Gianni, riprendi, stavo per battagliare in cucina, dai. Ehi, ciao Marco, ciao Gianfranco, buonasera, sera. Oggi siete un po' ritardatari, cari. Marco, lo so che era fare la spesa, tu Gianfranco, cosa stavi combinando? Anch'io ero a fare la spesa, non ti posso dire nulla, perché c'era una situazione di assembramento molto pericolosa, non sentivo. Sto ascoltando parecchie scariche, quindi da qualche parte sta arrivando temporale o qualcosa del genere. Tra l'altro c'è anche una propagazione molto lunga, quindi sopra e sotto sentono anche americani, mi sembra. Gianfra. Si sa se c'è qualcuno che chiamava. Ma stavi ascoltando in PMR? Sì, un pochino, perché poi c'ho anche stranamente il coronavirus sta facendo rientrare tutti anche su, perché c'è un internazionale, funziona. No, per sapere se arrivavo un attimo fa quando ho parlato su. Beh, non c'è problema, dal mio canale ti dico se arrivi o no. Allora, facciamo il 6 PMR, dai. 446-068-75. No, non c'è bisogno di scrivere. Ciao Gianni, ho sottovalutato, buonasera. Ho ascoltato anche ora con la stessa. Aspetta che adesso devo sintonizzare qui. Tutti facendo scorte, hanno paura della coronavirus, tutti facendo le scorte state. Io no, la verità già, manco un mucchino ha comprato. Non me ne passa, c'è altri problemi, altro che coronavirus. Tanto c'è da succedere, non c'è... Vabbè, poi ti dirò. Ci sei Gianfra? Mi qua sta dolorica. E anche per frequenza mi sembra. Sì, puoi andare, quando puoi andare? Manda giù. Il 6 hai detto, il 6. Il 7 non stesso. Il 6, una bottina, prova 4 o 3, ok. Segnale. Sono scalo. Non avevo dubbi. Solo 15. Cosa vuoi che sia, Robetta? Attention my friend, for Sardinia, Italy. A me mi hai sentito? No, no scusa, avevo il volume a zero, riprova. Attention my friend, Italy from Sardinia. Eccomi qua. Così da, perché era tanto che non si... tutto fermo qua, tutto incrostato di ossido, quindi dovevo provare, dai. Ma è fuori frequenza, io sento come se fosse fuori, o sono io fuori frequenza? No, tu sei centrato, ma c'è una dolori. Gianni, dille qualcosa a questo che sta male. Attention, my friend, Italy from Sardinia. Ah, no, secondo me è locale, è a dolori ma è locale. Vabbè, noi siamo qua, quando vuole entrare siamo qua. Bene. Dove i cani fanno così? No, sopra è pieno, ho sentito la spagna molto forte. Poi sono andato agli Stati Uniti. Poi sotto anche in 26 c'è gente, praticamente lo stesso a dolori. Gianfra, una domanda, ma se io ti volessi interpellare per quanto riguarda una certa sezione digitale, anche di quei digital work, no? Perché io certe voci non le capisco, come posso contattarti? Ma giusto due o tre voci mi interessava sapere. Non c'ho sotto mano adesso il programma. Sì, dipende da innanzitutto da che sistema è. Sì. Poi vediamo un po' cosa che menu che apparato è, che tipo di funzione ti interessa. Kappa, ciao Nicola. No vabbè, il codec ambe P2C sempre quello, digital PMR. Certe voci non so se. Era una curiosità, in realtà gli apparati sono già pronti all'uso, no? Anzi li ho dovuti dissotterrare da ragnatele e polvere perché tanto non c'è nella volontà, le prove sono state fatte, la portata è la medesima. Nico subito ti rilancio, dicevo la portata è la medesima, no? Perché ho provato, dove scompare il segnale analogico scompare anche il segnale digitale, proprio stessa cosa, con la differenza che con l'analogico ti rendi conto della distanza perché mano a mano aumenta il fruscio di fondo, cioè ti accorgi quando stai arrivando al limite della portata, lì o prende o non prende, cioè di botto o senti o non senti. È una cosa un po' che mi lascia, capito, non ha l'idea della distanza, mi pare surreale come cosa. Detto ciò rilancio a Nicola e faccio QRX che devo mettere mano alla cucina. Vai Nicola, buonasera. Vabbè, qua 9 più 10 lo sai, no, Vianizza. Io buonasera. Buonasera, mi sa che ieri arriva il cipote, ma non mi dire che sei fuori, perché qua stai iniziando anche a suonare. Sì, la radio è buona, radio buona, quindi più che comprensibile. Purtroppo, ripeto, ci sono molte scariche perché si sta avvicinando un temporale. Prego, Nico, fai pure. Da me è livello QRM, la radio è 2. Anche la posizione è molto difficile da segnare, non può stare, capito? Quindi anche se in 26, non vendono per niente con gli altri. Io a quest'ora mi sarei deciso a mettere una stazione come si deve, mi sarei già buriato di salire sul terrazzo di sera, andare a fare la passeggiata, ui. Avrei già messo tutto qua. Sì, confermo, ti copio, molto più basso è S7, la radio è 3/5, dai. Sì, mi sembra proprio il caso. Mi sembra il caso perché non è molto consigliabile rimanere con qualcosa in mano sul terrazzo anche un temporale. Comunque siamo qua, Nico, se c'è bisogno siamo qua. Avanti, Dio. Probabilmente neanche la zona pure, non lo so come si mette. Va bene, Nico. Fatti sentire dentro casa se ti ascoltiamo. Vedi tu. Gianfra oggi qua stava grandinando, a tutto grandinare con il sole. Guarda, mi capisce bravo. Se poi diminuisci un po' questo time che c'hai dell'eco, perché mi stai parlando per due volte, è troppo largo. Mi domini? Chi è? Allora mi domini, mica sono arrivato. Chi sono? Gianni, tu non dire niente. Non. Aspetta che accendo il riconoscimento vocale. Chi è? Tonino Kawasaki. Ammazza. Ciao Gianfranco, ciao Gianni. Ciao tu. Cos'è che hai acceso? Sì, io. Aspetta, sto accendendo cosa? Il riconoscimento vocale. Kappa. Tony, come mai a quest'ora? Oggi sei libero. Ma veramente stiamo guardando con lo stronzetto di pallavolo, ci mi ha rotto le palle e allora aspetto il TV e insomma ci dovrà chiedere a chi c'è. Sì, ma se togli un po' un lecco forse ti sento anche meglio. Ciao. E adesso vedo se riesco a toglierlo. Perché sono coricato, mi viene male, aspetta. Ah, non lo dire a Paoletto, eh. Oh, hai detto meno che Kawasaki. No, hai fatto mi dici così. Ciao, Tony. Marco, sto... Vabbè, il fornetto cuoce io, già. Devo solo aprire la bocca e mangiare. E già l'hai crepato, gà. Eh beh, siete tutti verso la zona, già lo grido. Avete parlato di questo, però si sta già a me. Non mi fai papità, l'ecco c'è adesso. No, adesso va bene già. Oh, basta, così almeno Gianfranco se ne sta a saltare a pace. Beh, no, te l'ho detto anche il Tonino, quindi non è questione di Gianfranco, ma no. Oh già, questo ecco te lo lamentano tutti. Eppure non è gradevole anche, non è eccessivo. Poi la radio è limpida anche, la modulazione. Lo so, ma è la mia prerogativa, come Nino Torre Bravo, quando modulava per Valenco, se te lo ricordi Tony, e da lì non riuscia, non ricavava. Lo so, però diciamo a volte, sì, piace poi a volte, quando siamo diciamo vicini che lì fortissimo, dà anche fastidio, senti la radio un po' male, capito? Ma adesso la radio passa e Marco? No. Tutt'altro, già andava bene, e per le comunicazioni questi cittadini ce n'è d'avanzo. C'è un attacco in casa. Pomponio, ci sei qua? Sta parlando di PMR, vediamo se anche qua. Vabbè. E tu Marco lì cosa hai fatto di bello oggi? Ui, potrei dirlo a parole mie, ma sarebbe volgare, però mi sono grattato. L'unica cosa buona che ho fatto è fare la spesa, andare in farmacia, in edicola, dal tabacchino più che altro. Basta, non ho giocato altro. Purtroppo, giornata un po' statica. Io oggi a casa, raffreddore, mezza influenza, diciamo, dai, ma mi è passata la tipica. È un po' di tosse. E non ho detto, non ci voglio lavorare perché andiamo via. Quindi dietro lunedì. Tony, se vuoi ti do le polangine, sono delle supposte tipo missile. Quelle le usi a bocca, perché è la miglior cosa succhiarle. La supposta di mio duro. Mi dovi. Nicola! Vabbè, non ho fatto questo. Ehi, a Nicola, dai, ti ascoltiamo, ma piccolissimo, dai. Perlomeno da parte mia sei piccolo. No, Tony, ciao portatile questo signore, ciao portatile, non si vuol decidere a mettersi la stazione fissa. Ma dov'è, che zona è di Sassari? Cava. No, non è di Sassari, ma abita a Sassari. E ho detto, che zona è di Sassari? Via Nizza. No, più giù, Cappuccini. Comunque qua non arriva Pio, ma Pio, ma è agito oltretomba. Vabbè, più o meno poi già metterà un'antenna sopra appena si calmano le acque lì nel condominio. Va bene, dai, prendete sempre. Ma se io ridò il mio apparecchio con l'antenna che c'ha, arriva a tutte le parti. Ma quale però già? Quello kit emergenza. Tipo il Maxon, è l'Intec però riesce forte di radio, tutto è bellissimo qua. Io lo mettevo in macchina, quando andavo a pescare mettevo l'antenna magnetica e parlavo da Fortottore con Sassari. Lì ci vuole antenna, guarda, potrebbe anche tenere il portatile per il momento, purché con un'antenna esterna. Poi non so se il Midland ci può mettere il microfono esterno, vabbè è così piccolo che alla fine è grande quanto un mic normale. Vabbè, riprendete, dai, che devo fare, roba. È un tantino più forte, dai, di radio. Un po' più forte di radio. Ma se sai che praticamente va meglio con quella, cosa stai a fare prove? Metti quella direttamente, boh. Ho capito. Ti manca solo l'antenna, deciditi a prendertela. Santiago 1 qua, Tony, dici a te. E io muto la polizzanza, dai, dopo San Camillo. Comunque segui i consigli che ti danno gli amici, perché con un'antenna grande, dai, sul tetto dove la puoi mettere, insomma, arrivi molto meglio. Perché così sembra che stai uscendo dall'America, oltretutto, ma poi pio proprio. E questo passaggio ha avuto una scarica, non ho capito da detto. Se hai il dipolo praticamente, un'antenna filare, no, non è un'antenna filare, stava scherzando, c'è un'antenna verticale, dai. facile a fare giù. C'è un capo di bottiglia. La corda per stendere, Nico, è antenna. Vedi, oh Nico, tu potresti fare una cosa, c'ho un'idea. Idea. Le togli un filo da stendere a tua moglie e ci metti il dipolo al posto del filo da stendere. E sei a posto, c'hai l'antenna a filare e esci bene lo stesso. Gianni non lo può fare. È pruita. Perché se lui fa dei passaggi lunghi poi le asciuga troppo in fretta la roba che è della moglie e quello li comandano la faciuga. Lo può fare perché Rosa Verde non stendeva la roba nel dipolo. Era un dipolo che doveva essere libero, che ha buona la roba, i pure buone bolletti, aiutai, ma insomma che anche con le barzellette di sì. Casa Rosa Verde l'ho visto io, mi sono andato adesso bugigato perché casa non era. C'era la moto, poi c'era il dipolo interno e c'era tutta la roba stesa. Comunque già, a parte scherzi, quanto c'è sotto? Io ho 10 watt. Cazzo, sì, proprio saturo e fotoscala qua, eh. Questo qui è un bel apparecchio, costa 500 euro però. È un Magnum, un Magnum di lusso al vero. Beh, vabbè, il mio segnale già ti arriva bene, sì. Sì, sì, no, ti ascolto bene anche io. E no, non uso più lineari io, no. Oramai non c'è più bisogno. È più pulito la frequenza, dai. Sì, ma se non c'avevi potenza non passavi, ti calpestavano tutti. Ci mettevo d'accordo, io lo facevo incazzare a questa, io lo facevo incazzare, e l'ho passato. Io c'avevo 1000 watt sotto, le Galaxy 1000. E io il Jumbo Aristocrat, 600 watt. Comunque, da quando è mancato il tuo amore già, è più pulito la frequenza. E io ero biglia. No, lo sai che la frequenza era ferma, non c'era più nessuno. Ci siamo trovati in Natalina, dai, io spolveriamo tutto, prendiamo tutto. Ma era anni e anni che non c'era nessuno. E siamo rientrati lì, poi sono rientrati gli altri. Perché sennò sarebbe stata già morta, completamente. Ogni adrona che è giusto, cara. Cosa, Tony? Ogni tuono che ha tirato, bebe. Mamma mia, speriamo che non dia problemi di cosa, vabbè, la mia non è in ferro o cosa, non è la mia, non c'ha attrazione di rampo, perché è fatto tutto in tubo tipo quello delle vele delle barche. Che mi ricordo tempo fa un CB che modulava praticamente la landriga, si chiamava Tacco e aveva l'antenna sopra un palo che c'era il mulino lì, no, tutto 30 metri. Ma un bel giorno, un bel temporale, gli ha colpito un bel fulmine e gli ha bruciato anche la stazione. Sì, è successo anche a Luna Rossa. E comunque è pericoloso poi c'è il temporale. Io attacco sempre il fulmine, non sta mai. E comunque non può dire niente, perché quello che c'era di fronte a me le è arrivato un fulmine, allora la Diamond, che è tutta in vibrovesina, che è più corta del Master, e non l'ha trovata più semplicemente. Ha visto su e hanno detto guarda che sono esplosioni delle pannelli solari. E non c'era più antenna, forse la polvere, no, per la vetrovesina. Ha polverizzata addirittura. È stato fortunato perché il caso non l'aveva buttato giù, era rimasto più secco. E già, guarda che le fulmine sono migliori di volto. Lo so, non l'hanno ancora misurata la velocità di un fulmine. Non sono riusciti ancora a misurarla, ma comunque so di amici in campagna che ha bruciato la pompa sommersa, computer, frigorifero, tutto quanto. Perché in campagna è ancora più pericoloso che ci sono gli alberi che attirano i fulmini. Guarda che anche, e si adrono, anche un filo d'erba attira il fulmine. Io ho visto un albero spezzato dal fulmine, è proprio spaccato in due, un albero di olivetto, un olivetto, in campagna di questa vicomina, spaccato in due dal fulmine. Sono potenti, pericolosi comunque, dai, fate scherzo. La fase sopra, come si vedono le nuvole, la scintilla, va sul neutro che è la terra, è fatto casino. E poi la trasmissione ionizza l'aria un po' e quindi è pericolosa. Va bene, io chiudo, vado alla cena per l'altro. Ci sentiamo, buona serata a tutti e ci sentiamo. Non sta mai. Ciao. Alzare la ripidare le mani, ciao ciao ciao Fra, ci sentiamo. Avanti tu lì. Ciao ciao Fra, ci siamo lo sappiamo bene, l'abbiamo scaricato a tirato. Buon cuore di, ma se trovo, dai, picca, buona in busciacara. Vediamo un po' se sono aumentate. No, le stazionali non sono aumentate. No, devo mettere stazionale. Ma Marconino, cuore X ha fatto. Marco pranza a quest'ora, mentre noi ceniamo lui pranza a quest'ora, poi la cena la fa tardi, verso l'una di notte. A orari un po' strani, dai. Avanti Nicola. Nico, col QRM della pioggia non ti sento niente. È più pio. Ah, onesta, magari come smette ti ascoltiamo meglio, perché c'è QRM della pioggia, capito? Già con X, faccio la telefono. K, hola. Va bene Nico, ci sentiamo, dai, buona serata.